Brian e la marcia in più. Ecco un po' di follia, quanto basta perché ti, come lei, non sei mia. Se mi fai l'amore ti canterò come se fosse una canzone. Tu,